Già sono connessi parecchi federissimi di questo spazio, per cui Dario Righi di Progetto Non Aim e Sara K.O. Fontana. That's the Carlo from Boscon. Un saluto anche a Massimo Mascheroni e Enrico Ponzone. Alberto Clipper di Humanima MD e May. Cornelio Basilisco, anche lui di Humanima. Salutiamo anche Rodrigo Passannanti in quel di Londra, Isetual, Wurnus Aileen, Cristiano Bocci di Chemical Resistance, Maya e Nicola Locci dalla Sardegna. Rosa La Vita, omonimo progetto elettronico industriale. Ancora Marco Milanesio, Mariano Virdia, Flavio Derbecante, Arianna Degni Lombardo di Noise Cluster, Gianluca Becuzzi, un saluto a lui. Maria D'Agostini qui a Roma e anche Daniele Ciullini, altra realtà storica dell'industrial italiano. C'è anche Jean-Claude Bertot, ovviamente, in Val d'Aosta, e Alessandra qui a Roma. Iniziamo con Eva Tree, come abbiamo fatto la scorsa settimana, uno dei rari, diciamo, più che rari, diciamo, non spesso l'antezen stampa personaggi, diciamo, di area più o meno ambient. È caso appunto di Eva Tree con questo A World Within, un lavoro uscito nel 2021. Artista inglese, vero nome Paul Lavigne. Ci perdiamo nei tappeti rarefatti di Gone e della quarta traccia dal nome Last. l'elegante struttura ambient di Eva 3, questa misteriosissima Eva numero 3, in realtà un uomo, Paul Levigne. Percorsi rarefatti contenuti in questo A World Within, secondo lavoro di per questo artista inglese attraverso la label tedesca da noi molto apprezzata Ant Zen. L'ora dove molti stanno anche mangiando, e quindi è anche bello essere colonna sonora per esempio di Valerio Michetti e Ale Trinity Bersiani. Prove tecniche di trasmissione e carbonara, una coppiata direi vincente e accattivante. 21:20 dunque, prove tecniche di trasmissione va avanti e lasciamo Eva 3. E rimaniamo su suoni non diversissimi da questo, sfruttando il cosmo, i pianeti, le costellazioni contenuti in Drone Islands Stellar, compilation del 2021, ideata naturalmente da Raffaele Pezzella attraverso la sua Eight Tower. Il viaggio interstellare termina con Thomas Grenzebach con Five Times Dormant. È un artista indiano dal nome Tito Plus con Black Hole. Thank you. chiamato Thomas Grenzebach, è il turno dell'indiano Tito Plus. Eccola qua, Black Hole. chiudeva più che degnamente la compilation Drone Highlands Stellar con questo artista indiano Tito Plus. Anche lui ha un profilo Bandcamp a bluetitobandcamp.com, dove si possono trovare altri passaggi per lui. Questo cromatismo kraut rock, questo rimando ai Corrieri Cosmici, componente che era abbastanza presente in questa terza, questo terzo volume della saga Drone Highlands. Si saluta anche il medico della peste Alessandro Ragazzo, che a breve ascolteremo. In ogni caso, arriviamo qui in Italia con She Spreads Sorrow di Alice Kundalini, quarto lavoro per questo artista che sin dall'inizio della propria carriera si è accasata presso la Cold Spring, una delle etichette più celebri e di valore del genere, diciamo, industrial ambient noise, etichetta inglese. Apro una parentesi su Eva Tree, che ha riscontrato parecchi consensi. Devo anche segnalare il primo lavoro, che fu del 2007, The Great Divide, più orientato però verso il tech noise. Tornando a She Spreads Sorrow, la ultima fatica si chiama Huntress. Ci ascoltiamo la quarta traccia dal nome Inside. Grande ritorno per She Sprays Sorrow di Alice Kundalini. Ennesima esponente della colonna piemontese, un Piemonte che esprime talenti non indifferenti da molti anni a questa parte. E rispondendo anche al buon Niccolò Locci, effettivamente vado a consigliare anche gli altri tre album che sono usciti in passato, a partire dal primo del 2015. La sofferta introspezione e anche le pulsazioni di questa Inside, anzi di quella prima, questa già è la traccia successiva che ci accompagna invece e ci porta da Alessandro Ragazzo, altro talento del nord Italia, esattamente dal nord-est in questa circostanza di Venezia. Uscito la sua ultima fatica dal nome Corpore Absence, ci ascoltiamo proprio il secondo movimento, Corpore Absence numero 2, e di questa traccia ci andiamo ad ascoltare la seconda parte. Thank you. Eccellente il contributo sonoreo che ci ha dato Alessandro Ragazzo da questo Corpore Absence. Per chi volesse, ci sono anche delle interessanti considerazioni sulle latenze fisico-spirituali, delle considerazioni molto particolari che ci ha donato sul profilo Bandcamp questo artista di Porto Marghera, tessitore fine di Fields Recording. Rumori sul campo che veramente nobilitano questo lavoro, che esce attraverso questa Dornwald Records, un'emergente realtà italiana indipendente. Invece con la Grubenwehr Friburgo, quindi di Friburgo, esce la collaborazione ottima tra Noise Cluster e Stigmate dei nostri amici Arianna Degni Lombardo, Flavio Rivabella e Nicola Locci, tutti e tre all'ascolto e che salutiamo caldamente. Si chiama Extreme Sleepwalking, si parla di sonnambulismo. Siamo giunti alle due tracce finali di questo lavoro che portano il nome di The Fall e Brain Damage.